mai usato, quindi siete riusciti a settarlo, è semplice. Modulazione 5, perfetto. C'è qualche problemino. Manda giù, per sentire il rumore di fondo, manda giù. Manda giù. Ah, aspetta, vuoi sentire la voce? Aspetta, tu. Un secondo. Prova, prova. Ma sento rumore di ventola, fortissimo. Ecco, prova. Vediamo un po'. Tranquillo, Cristian. 1, 2, 3, prova. Sì, va bene, dai. Il ventilatore non si vede perché la telecamera praticamente punta solo sui letti. Sì, da pre-Covid non lo utilizzavo questo apparato, E sai qual è? Il... Ehi, dimmi, dimmi. Ah, mi senti? Attento, mi senti? Sì, Anto, ti sento. Vedi se mi copi tu, 1, 2, 3, 4, 5. A voi anche ti copio, com'è? Buona, ti faccio sentire di giù. Parla. Ci sono interferenze. Ehi, già sto parlando. Guarda a vedere come mi senti in PMR. Ottimo, va in stereo, te lo dico. Ottimo, su, ottimo. Ti sei ascoltato? E allora chi non tratteghiccia? Ehi, sai cosa? Il ventilatore è pronto, settato, tutto ok, sia sistema che circuito paziente. Ok, dai, mi sto preparando ad andare a fare una commissione. Ci sentiamo. Ehi, accianto. No, vabbè, Pomponio c'è. Ehi, che so, mi ascolta tutti io, tutti e due. Altra volta, quando sono uscito qui da casa, sono andato in via Poggino, Simona parlava da qua, io mi sono portato l'ottotto appresso, parlavo tranquillamente dalla via Giovanni, anzi di fronte proprio al circolo, figurati, dentro non ci arrivavo per niente, ma fuori sì però. E beh, Marco. E beh, chiù. Il signor Cocomane, come va? E bene. E voi come va? Sereno variabile. Ti avevo telefonato, Natali. Però forse eri impegnato, non hai risposto. Quando? Metà serata. Sai che sia 3/4 d'ora fa. Ero addormentato sicuramente. Non ho manco guardato il telefono. Magari è per quello. Va bene. Ok, un attimino, riprendete che devo fare una foto. Perché lui fa l'amore col piatto, capito, quest'ora, Marco? Ah, se sta gustando, se sono la torta e lasagne, così se le mangia. Gli viene la voglia di mangiarsi tutto, anche il piatto. Poi fa, come si dice, il panino. La ciabattina fa. Marco, telefonami se... Dimmi, Marco. Adesso sono operativo, non c'è problema. Antonio, mi senti? Sì. Va bene, era per una... Michele, mi senti? Sì, ci sono interferenze comunque. Sento basso, Antonio. Allora, amiche, sì, ora sì che ci serve un casco, però... Le... NIV. Io già ti sono andata lì. Basso, ma sì, sì. Arriva. Sì. Per quello che mi senti così. Vabbè, comunque ti sento, non è che non ti sento, voglia, ci mancherebbe. Sono Volgomino, vabbè là, ci sentiamo alle prossime, Antonio. E sono qua. Diciamo se Antonio è sparito, Antonio? Antonio è sparito, vabbè. Cioè, sono qua. Ehi, buonasera anche a lei. Beh, come va? Sto arrivando lì, cioè, 5 di segnale, radio 5. Ok, io lo prendo. La radio va bene. Va benissimo, è con chi sento, lo sento a me. Natalino, Gommino e Marco a casa sua. No, non lo sento. Salutami. Marco mi sembra che al telefono sta chiamando Natalino, quindi appena rientra se lo saluto, non c'è problema. Prego, stai facendo il bello, fa. Niente, ho rientrato adesso, come c'è il servizio? Noi sono un po' meno, lo usavo, la verità, questo apparecchio qua. Figurati. Anche perché la sera lì qui di solito hanno aperto un cantiere, hanno aperto. E cazzo, stavo facendo i cantieri come... Sì, anzi no, come le api, cazzo. E quando c'è questo 110% sono tutti diventati geometri, cose, stanno aprendo cantieri lì per fare palazzine. Adesso si sono procurati anche portate, ne capito, e parlano sul canale 7 fino alle 5 e mezzo. Sì. Se devo rispondere qua, vai leggermente a destra, no appena a sinistra, blocca, fermo così. Già li sento, ogni tanto li sento, qualche volta qua arrivano. Gli grippi, che gli risponde qualcun altro a lui, ascolta, ma buono che c'è a girarmi i coglioni con questo carrello, o vado a destra o vado a sinistra. No, non ne vale la pena. Stanno lavorando, poveracci. Già lo so, c'hanno i blondi stanno usando. Si sente la pipì che c'hanno, sono blondi quelli, so. Quei portati della blondi, cazzo. Io sento anche quelli di quelle calze, qua, un po' tutti, là. A volte ci sono con le frequenze che ce ne sono, se le persone come adesso sono in tasca di un'altra dopo di questo sì, c'è un po' di tutto. Allora, sull'uno c'è Leni, che già lo so anch'io perché mi aveva chiamato Fabrizio la notte, il primo giorno che abbia stato il PMR, siccome non c'hanno il PMR civile. E avevo messo l'antenna alla... già mi sentiva con un bombino. Poi avevo messo la tubo 2001, poi basta, 2000, da come si chiama? Quella della macchina, agganciata alla staffetta fuori nel tetto. Ma ha chiamato, mi ha detto, dice, come fai ad arrivare così forte di qua? Tanto a me lo chiede, sto facendo con l'antenna della macchina, sto piantata nel tetto. Allora mi ha chiesto la cortesia, siccome parlavamo io e lui in dall'1 e il 2 con un amico di Alghero, cioè di Olmedo, hai capito, lui ci aveva installato quei ripetitori pappagallo, hai capito, e mi aveva chiamato e mi ha fatto che tipo di sposta, qual è il problema, io ho detto fatto, e abbiamo, io ho 12 canali anche più, ma solo l'altro, ma poi se mi sono spostato. Poi vabbè sono nati i cosi, quelli della TS che parlano da pronto soccorso fino al quinto piano, dopodiché il centro vaccinale, eccetera, eccetera, e adesso i cantieri lì. Sì, era Marco quello di me. Sì, io. Non l'ho più sentito. Non lo sto guardando più, io già lo conosco. Ho conosciuto il telefono. Sì, ma parlavamo mattina e sera. Una volta che agganciavo il ripetitore, alla volta mi sentivo la voce mia. Era bello quel ripetitore a pappagallo, beh. Installandolo qua è stato una benedizione per tutti, sarebbe stato. Solo che dice che non lo stanno facendo più, mi ha detto Marco. Io me l'avevo comprato, mi è installato. Passano uno di quei portati di 888. A voglia vanno bene con un pannello solare, una batteria di quelle da 6 ampere. A voglia che vanno. Io lo credo. va bene, dai. Adesso sentiamo. Ascoltiamo. Sono da tutti. Siamo anche da salire. Va bene, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao. Sì, ciao, fra, ci sentiamo dopo, al limite sempre, se no domani non c'è problema. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria. Ma non se la può togliere? No, si può togliere, no, quei soldi. Ma che brutto che è, parchetta. È più forte i bippi che la radio. Sto usando il microfono normale, colpa mia. Va bene, non ti preoccupare. E il microfono con la tastiera. C'è l'attacco come il telefono. Ma che di passare la frequenza che non riusciamo a comunicare noi. Il telefono, per carità, non lo tocco nemmeno. Non mi fidano. Vabbè, sono in ascolto, Antonella. Sentiamo, ciao. È una linea di emergenza. Sì, ciao Gio Maria, ci sentiamo. Salutami. Salutoni tutta. Sì, Marco. Santone ha bisogno di un catheter mount. Ok, adesso lo cerco, però dovrebbe essere nella stanza dei ventilatori. Ok, dimmi se lo trovi, in caso lo sto cercando anch'io. Marco, ci sei? Sì, dimmi. Dovrebbe essere nell'armadio. Ah, sì, l'abbiamo trovato, grazie. Perfetto. Ascolta, ma che infermiere dovrebbe esserci qua che non le sta trovando? Valeria, forse? C'è un infermiere dentro? Ora ti dico. Valeria e Leonora. Le ho trovate, c'erano nascoste. Segni tu chi ti sta più simpatica o più antipatica, non lo so, dipende da quello che devi chiedere. C'avevo il volume a zero. Ah, il volume a zero avevi. Ehi Antonio, sono al telefono, abbi pazienza, dai. Non ho capito, ma a volte perché non esce. Ma non vuole. Oh, non è tre, non è tre, non è tre. Prova. Adesso va bene. Sentite dentro? Io sì. I documenti di Corimbi. I documenti di Corimbi? Pomponio abusivo. Sicuro. Voce, Antonè, voce. Ho detto sicuro, non sono mica abusivo. Ci mancherebbe. Grazie, ci abbiamo 8 canali a disposizione. Allora, è abusivo. Abusivo le spalle. Antonè, una domanda, ma sei in stretta? Sì, sono in narro, per la testa. Ah, per quello, ecco perché ribasso di radio. Allora devo cambiare io, come si fa? Cosa adesso cosa lo posso fare? Io sono in narro con questo. Sto a fare il quarto. Infatti, la banda stretta, narro. C'è anche scritto, con la pilota, qualcosa, diciamo, la preferenza, come la vuoi chiamare. Sono in 43.075, canale 1 LPD, sono normale, e basta, addirittura sta con anche il VAT. Quanto avevi pagato tu quell'antenna per il PMR? Stanno parlando? No, non c'è nessuno, è proprio. Quanto avevi pagato tu quell'antenna verticale PMR? Così non sto a rischiare le orecchie. Ogni volta andare a controllare il V, i numeri, eccetera, eccetera. Se va bene, magari ci sono stazionari, non lo so. Ecco, adesso sono anch'io in stretta, Allora, la Diamond TC202 ce l'ho ancora dentro la busta, cioè l'ho provata ma in busta senza. Le polvere, il prezzo era forse 50, intorno ai 50. Devo controllare su internet. E c'ha tre radialine, in realtà quanto un X prezzo. Ah, ok. Allora, a fine mese mio dirò quella, mio Dio. Non adesso perché gli ho dato i soldi a Simona, peraltro. Adesso appena mi dai i soldi quello di giù, ti passo i soldi di quanto costa e più la spedizione. E così me la fa arrivare, tocco l'ex 300 e ci metto solamente quella per il PMR e basta. Ah, ve lo faccio, dai, che sto dicendo, la faccio niente, tanto vuoto, però... Male. Figurati. Quindi la mia messo al 9, se ne trovo, fammi sapere, in caso te li metto in svestizione. Nel frattempo, se credo alle mani, viene con un rotato sì, quella la stiamo mandando adesso. Perfetto, fammi sapere dei consensi. Ma un po' di tempo, ancora ce l'hanno in vendita, però ti devo aspettare. Eliminatevi da questa frequenza, per le emergenze. Sentito, è Marco. Come dice Antonella? Ho detto di eliminarvi da questa frequenza. Ma c'è qualcuno che sta parlando sotto, perché io sento solo te. Ha detto eliminarvi da questa frequenza. Adesso ti facciamo mandare i documenti, invece se riusciamo a mandarci la documentazione del pronto soccorso così iniziamo a guardare il ricovero. Quella la stiamo mandando già, Dani. Perfetto, grazie. Guarda che canale ce ne sono 8, quindi questo canale qua sul 7 siamo due della palla cittadina che l'abbiamo sempre usato. Allora, lo so che mi sembra strano con le interferenze, ma noi la stiamo usando per delle emergenze mediche, quindi per favore, cambiate canale. Sì, sull'otto non potete andare, sull'otto lo stanno utilizzando l'Aeon giù a Porto Torres, quindi... abbandonate la frequenza, saremo costretti a rivolgerci... Sì, canali. Non c'è nessun problema, non ci pensiamo da niente. Quindi a parte che questo canale qui può esserci noi la sera dalle 8 del mattino fino alle 5 e mezzo di sera, non so se avete notato ci sono i cantieri che sono lì accarponati, si sentono chiaramente, quindi vedi tu. Per favore, cambiate frequenza, non riusciamo a gestire i pazienti. 26. Non è giusto però, scusa. Allora dobbiamo lasciare il canale a tutti i libri a chi vuole entrare, non ho capito. Entrano i bambini anche addirittura, sabato sera e domenica, a parlare con le madri. Ci sono 6 canali, il discorso è quello lì, io glielo sto dicendo non per visitare cose del genere, anche perché ci sono i cantieri. Se vogliono visitare con i cantieri che ci sono di vicini dell'Italia e che usufruiscono del canale 7 per poter parlare tra giù e in pratica da gruppo. Quindi, non lo so, vabbè, io glielo posso anche lasciare questa sera per favore, però il discorso è quello. Ci sono altri 6 canali. Chiudi, vai al canale nostro 10, 27, vai Antonio, lascia qua, dai. Mi scuso con chi stavo utilizzando il canale a uso lavorativo e qua non arrivava il segnale, lasciamo il canale libero. Buona serata a tutti. Abbiamo sentito solo le scuse, vi ringraziamo, non riusciamo a gestire, grazie mille. Ok, mi sposto anch'io comunque 27, comunque... Probabilmente la metà è solo con me o con gli altri, ma anche con i cantieri. Perché su questo canale ci sono i cantieri alle 8 del mattino fino alle 5 e mezzo di sera. Quindi è un... Qui non ci trovate quasi mai a noi, infatti se avete notato vi avete pigliato il canale e l'avete usato come volete, come volete, volevate voi. A parte voi poi ci sono i cantieri di vicino all'ospedale e l'ufficio di questo canale qua per poter parlare dalla laggiù con la gru e viceversa per portare il materiale. Ok, io mi sposto, vi ringrazio. Non vi incazzate, non succede niente.